never heard of the mumbo and the boogie too. Round ain't square ain't and the lowdown blues. All you kids listen to me if you really wanna rock and roll. La selvaggia performance televisiva allo show di Steve Allen, bissata da quel capolavoro intitolato Great Balls of Fire, avevano proiettato il killer fra le grandi stelle del rock and roll. In molti, soprattutto lui, pensavano che da lì a poco avrebbe spodestato il re dal trono. La sua immagine di monello incorreggibile era confermata da episodi talmente inverosimili da sembrare veri, come quello del concerto al Paramount Theatre di Brooklyn del marzo del 58. Lo show, intitolato Big Beat, era organizzato da Alan Freed con un cast ben nutrito. Durante 43 date si sarebbero esibiti una dozzina di artisti, fra cui spiccavano i nomi di Larry Williams, Buddy Holly e i suoi Crickets, Chuck Berry e Jerry Lee Lewis. Al killer non andava giù che Berry fosse l'headliner. Lui era il migliore di tutti e doveva chiudere lo spettacolo. Durante l'esibizione di Great Balls of Fire, tira fuori dal taschino una bottiglietta di Coca-Cola piena di benzina. La svuota sul pianoforte e, continuando a suonare, appicca il fuoco. Finita la performance, va verso Chuck e lo sfida a superare il numero. Secondo le versioni, aggiunge pure un epiteto razzista, ma non importa, è tutto falso. If I can hold you, then let me squeeze. My heart goes round and round. My love won't tumble me down. You leave me breathless. Jerry Lee era amatissimo dai giovani e nemico giurato dei genitori dell'establishment. La sua musica, forsennata al suo atteggiamento ribelle, rappresentavano un assalto alla roccaforte del perbenismo. La sua carriera era in fortissima ascesa. Il single successivo, questa Breathless, aveva venduto benone. Si apprestava a compiere un trionfale tour di 6 settimane in Inghilterra, dove i suoi dischi erano in cima alle classifiche. Il 22 maggio, 2 giorni dopo la pubblicazione del suo nuovo single, parte per l'antica terra d'Albione, destinazione Londra. Appena atterrato, i giornalisti chiedono chi fosse quella ragazzina che stava al suo fianco. Il killer, con la consueta arroganza, risponde che la 15enne Mira Brown è sua moglie. Alcune testate giornalistiche indagano a fondo e scoprono che Mira ha solo 13 anni ed è pure cugina di secondo grado del killer. Inoltre, viene fuori che si è sposato senza divorziare dalla seconda moglie. I giornali inglesi lo sputtanano alla grande. Nei titoloni ci sono parole come adulterio, incesto e pedofilia. In un'intervista concessa alla stampa, invece di provare a chiedere scusa, si difende come l'Olanda di Cruyff, attaccando: da dove veniva lui, giù nel profondo sud, era normale sposare donne molto più giovani e non era affatto raro il matrimonio fra consanguigni. La ciliegina sulla torta la mette Mira, dicendo che puoi anche sposarti a 10 anni se trovi un marito. Il trionfale tour di 6 settimane dura solo 3 giorni. I concerti sono tutti annullati e alla partenza dall'hotel verso l'aeroporto sono inseguiti da una folla di genitori inferociti. And I'll be looking for you. Ritornato in patria, scopre che l'indignazione inglese ha attraversato l'Atlantico. Le radio si rifiutano di suonare la sua musica. I concerti sono tutti annullati. La sua meteorica carriera è già finita. In pochissimo tempo passa da suonare in concerti multitudinari da $10,000 a notte a esibirsi per 4 ubriachi nei peggiori tuguri del sud per 250. La fine di Jerry Lee Lewis coincide con quella della Sun. Sam Phillips lo considerava l'artista più talentuoso con il quale avesse mai lavorato. Era capace di suonare a orecchio e ricreare molteplici stili, qualsiasi canzone ascoltasse. Ma il talento non è tutto. Sam aveva fatto lì sul cavallo sbagliato. Tutti i suoi migliori artisti erano andati altrove e ora si ritrovava solo. Da lì a poco venderà, conscio di aver contribuito in maniera decisiva allo sviluppo della musica rock. Per quanto riguarda Jerry Lee, sono anni bui pieni di alcol e anfetamine, arresti, sparatorie ed episodi poco edificanti. Resusciterà come altri artisti sani, come Johnny Cash e Carl Perkins, passando nel 63 al country. Nel 64, forse contagiato dal locale dove si erano fatti le ossa i Beatles in Germania, torna prepotentemente al rock and roll con un live esplosivo immortalato in vinile nel Live at Star Club di Amburgo. Al suo massimo livello era anche prima di partire per quel famoso tour inglese. Il single che aveva registrato 2 giorni prima di lasciare gli States è l'ultimo grande classico del Killer, High School Confidential. Open up a honey, it's your lover boy, me that's knocking. Why don't you listen to me, sugar, all the cats are at the high school rocking. Honey, get your bopping shoes, for the jukebox blows the fuse. Hey, everybody hopping, everybody's bopping, bopping at the high school hop. Well, the bopping at the high school hop, making at the high school hop. Hopping at the high school hop, rocking at the high school hop. Well, everybody hopping, everybody's bopping, bopping at the high school hop. Come on, little baby, let's rock a little bit tonight. Ooh, let's get the with the sugar, let's shake it up tonight. Well, my heart's a beating rhythm and my feet are moving smooth and alive. Well, bopping at the high school hop, bopping at the high school hop, shaking at the high school hop, moving at the high school hop. Everybody bopping, everybody rocking, bopping at the high school hop. Now let's go! I'm gonna give you some good news. Look at here, sweet mama, let the burner off my shoes. Hey, my heart's a beating rhythm, my soul is singing the blues. Well, I'm bopping at the high school hop, bopping at the high school hop, jumping at the high school hop, been rolling at the high school hop. Well, everybody hopping, everybody's bobbing, bobbing at the high school hop. Now let's go! La figura di Edward Ray Cochrane è stata spesso accostata a quella di James Dean. Con lui condivideva l'aspetto del ribelle bello e selvaggio, il grande talento e la costante voglia di migliorarsi e purtroppo la tragica e prematura scomparsa. Era l'ultimo di cinque fratelli e appena nato la famiglia decide di lasciare l'Oklahoma in cerca di opportunità a Albert Lee, una comunità di 20.000 anime disperse su un vasto territorio nel cuore del Minnesota. La vita nei boschi, a parte la caccia e la pesca, non offre tanti svaghi. Per Edward Ray, per tutti Eddie, l'unico contatto con il mondo esterno è la radio. Ci resta attaccato tutto il giorno e si innamora dell'unica musica trasmessa, Lilly Billy. Prova a suonare vari strumenti come clarinetto, batteria e trombone, ma a 6 anni la ricerca finisce. Il fratello maggiore Bill parte per la guerra e gli regala la sua chitarra. Grazie all'altro fratello Bob impara i primi accordi. In poco tempo e con molta dedizione è in grado di scimmiottare gli stili di Chet Atkins e Merle Travis. Nei primi 50 la famiglia lascia il Midwest per la soleggiata California. Il cambio di vita è radicale. Dall'anarco-primitivismo al capitalismo più sfrenato il passo è grande, ma al giovane Eddie il cambio piace assai. Stringe amicizia con il bassista Connie Gaibo Smith e con il chitarrista Chuck Foreman. Foreman, di qualche anno più vecchio, lo aiuta a perfezionare il suo stile. Inoltre, possiede un registratore a 2 tracce con il quale può sperimentare rudimentali sovraincisioni. I 3 formano un gruppo dove primeggia l'abilità con la steel di Foreman, come in questa Rocket, anche perché Eddie ha solo 14 anni. Continua a suonare in vari gruppi di western swing finché nel 1953 conosce Garland Perry, in arte Hank Cochran. You love me. I know that it is lies, but I keep it on believing in a field of paradise. I make believe. Il duo, che si esibisce come Cochran Brothers, trova una minuscola etichetta disposta a pubblicare 2 single di puro noioso country. Nel 55 l'epifania comune a tanti. Al Big D Jamboree di Dallas assiste all'esibizione del Messia di Tupelo e vede la luce. Ritorna in studio con il finto fratello per registrare qualcosa in quella direzione, ma Hank, dopo le registrazioni di questa Fool's Paradise, decide di mollare. Il rock non fa per lui. Va a Nashville per intraprendere una fortunata carriera di cantautore che lo porterà nella Hall of Fame della country music. Verso la fine dell'anno, Ed inizia a collaborare con il produttore Jerry Capehart, che diventa suo manager. Well, I know God was born skin, but they raven back. I 2, con Eddie alla voce e chitarra e Capehart percuotendo delle scatole di cartone, registrano delle demo dalle quali viene fuori un single per la minuscola Crest. Questa Skinny Jean avrebbe meritato miglior fortuna, ma passa inosservata. Il brano però gli consente di firmare per una discografica più importante, la Liberty. Il chitarrista in questo periodo ha una frenetica attività come sessioner, registrando per numerosi artisti dispersi su varie etichette. Proprio in sala di registrazione viene notato dal produttore cinematografico Boris Petrov. Era alla ricerca di rockers da inserire nel suo prossimo film e l'aspetto di Eddie è perfetto. We'll have to dance on a Saturday night. A hold a loomer, I can hold a tight. But she lives on the 20th floor of town. The elevators are broken down. The girl can't help it. Sbanca al botteghino e immortala Eddie in 20 Fly Rock. Canzone che sarà l'esame di ammissione di Paul McCartney nei Quarrymen. Well, she called me up. Nel 57, l'educatissima Sitting in the Balcony è il suo primo grande successo, entrando nei primi 20. Poi partecipa ad altri due film e in ottobre parte per lo storico tour australiano con Little Richard e Gene Vincent. Ritornato in patria, si imbarca in un'altra frenetica serie di concerti, il Biggest Show of the Stars. L'intensa attività live si riflette negativamente sulle registrazioni in studio, anche per colpa della Liberty, che vede lui un teen idol e gli fa registrare i brani stucchevolmente pop, inadatti a un rocker puro come lui. Nella primavera del 58, deciso a dare a Eddie un successo che gli desse un'identità musicale, Capehart affitta per $350 gli studi Gold Star di Hollywood. Da quelle session esce una sdolcinata ballata scritta dalla fidanzata del chitarrista Sharon Shelley, intitolata Love Again, che secondo la Liberty doveva essere il lato A. L'altro era un brano scritto in 45 minuti nell'appartamento di Jerry Capehart. Sua era anche l'idea di scrivere una canzone diversa sull'estate. Il risultato è un perfetto affresco del malessere giovanile e dell'insofferenza verso il potere costituito. Il protagonista deve subire le angherie del datore di lavoro che lo fa lavorare fino a tardi. Si vede negare l'uso dell'automobile dei genitori perché non è andato al lavoro e quando porta il suo caso davanti al deputato delle Nazioni Unite, questo gli dice che non lo può aiutare perché ancora non vota. I versi pronunciati da persone autoritarie sono parlati nello stile di un personaggio televisivo molto amato da Eddie. Uno dei protagonisti dello show Amos and Andy, George Kingfish Stevens, che con il suo caratteristico accento della Georgia contribuisce a dare un delizioso tocco comico al brano. Con la forza propulsiva del basso punk dell'amico Guy Bosmith si apre l'immortale Summertime Blues. I'm gonna raise a holler about a working on summer just to try to earn a dollar. Every time I call my baby, try to get a date, my boss says, no dice, son, you gotta work late. Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime blues. Well, my mom and papa told me, son, you gotta make some money. Now, if you wanna use the car to go a ride next Sunday. Oh, well, I didn't go to work, told the boss I was sick. Now, you can't use a car cause you didn't work a lick. Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime blues. Take 2 weeks, gonna have a fine vacation. I'm gonna take my problem to the United Nations. Well, I called my congressman and he said, quote, I'd like to help you, son, but you're too young to vote. Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime blues. When you dance, be sure to hold her tight. When you dance, you'll squeeze her, yeah, with all your might. Such a thrill, oh, when she's close to you. Well, hold her tight. When you dance. Quel genere battezzato posteriormente alla perfezione con il termine doo-wop è ispirato da questa When You Dance dei Turbans, che con i loro deliziosi coretti danno il nome a questo stile musicale. Per essere catalogati doo-wop occorreva seguire alcune regole fondamentali. Innanzitutto bisognava essere un gruppo con un'ampia gamma di timbri vocali, tenore, baritono e basso. Graditissimo era l'uso del falsetto. Il ritmo, con strumentazione leggera, doveva essere facile e i testi semplici. Infine, c'era l'uso di sillabe senza senso. Quest'ultimo requisito è elevato alla massima potenza dagli Edsels, che lo sbandierano fin dal titolo, con un pezzo che fa fatica a uscire dal cervello. Il gruppo ruota attorno ai fratelli Green. Inizialmente si facevano chiamare Esso, come la compagnia petrolifera che aveva varie installazioni lì in Ohio. Nel 58 la Ford fa uscire sul mercato la Edsel, pubblicizzata come la macchina del futuro. L'automobile, oltre a essere più brutta della multipla, aveva anche parecchi difetti meccanici e si è rivelato uno dei più grandi fallimenti dell'industria automobilistica. Il libro dei gusti non l'ha scritto nessuno e probabilmente, come per gli amanti della sei posti della Fiat, anche il modello della Ford aveva i suoi sostenitori. Ai ragazzi piaceva parecchio. Così si cambiano il nome in Edsels. Nel giugno del 58 registrano un brano pubblicato con il nome sbagliato dalla casa discografica. Il successo, nonostante l'alta qualità, è solo locale, ma nel 61 succede l'incredibile. Un DJ di New York inizia a suonarla per dimostrare che il successo del momento, questa Blue Moon dei Doo Woppers bianchi Marcells, era in realtà un plagio della canzone degli Edsels. Da lì a poco tutte le stazioni radio iniziano a diffonderla. Il contagio è a livello nazionale. Gli infetti sono facilmente riconoscibili perché non smettono di ripetere. Oh, I got it. She's everything to me. Well, I'm saputa la notizia, quelli del Lookout College erano rimasti sbalorditi. Molti pensavano fosse uno scherzo. Altri arrivarono addirittura a credere che venisse a portare scompigli in quella roccaforte del conservatorismo con una serie di concerti. Pochi giorni dopo l'ufficialità, Richard Wayne Pennyman sarebbe stato il nuovo ingombrante studente della prima scuola afroamericana degli avventisti del settimo giorno. Appena arrivato, aveva dato un discorso. Si era presentato ingiacchettato coi capelli corti, senza il suo meraviglioso pompadour. Aveva raccontato degli angeli che sostenevano l'aereo con i motori in fiamme, di come avesse visto la sua fine e della sua promessa all'Onnipotente. Se si fosse salvato, avrebbe abbandonato quella vita peccaminosa e si sarebbe dedicato a salvare quelli che come lui avevano sbagliato e perso il cammino della rettitudine. Aveva avvisato gli altri studenti dei pericoli a quale conduce il rock and roll. Non voleva che ascoltassero quella musica depravata e per dimostrarlo aveva offerto di riacquistare i suoi dischi a un prezzo maggiore dei negozi per fare un grande falò al centro del campus, vicino al campanile. Alcuni studenti, fiutato l'affare, erano andati a comprare vari single dell'artista per farci una piccola cresta. In fondo non c'era niente di male, anzi, il falò sarebbe stato più grande e dal regno dei cieli avrebbero goduto di uno spettacolo migliore. Era cambiato completamente. Aveva rinunciato a droga, alcol e caffè, seguiva una stretta dieta vegetariana e, mistero della fede, aveva rinnegato la sua omosessualità sposandosi con la studentessa Ernestine Marvin. Such me, Lord. Turn the lights from heaven on my soul. Il pentimento era vero. Per troncare con il passato, aveva buttato a mare i suoi preziosi anelli di diamante e chiuso anticipatamente il contratto con la Specialty. L'accordo era triennale, ma la crisi mistica era arrivata dopo soli 18 mesi. Così, Little Richard è costretto a rinunciare a tutti i diritti passati e futuri delle sue canzoni. You know where I belong. Mentre lui predica la parola di Dio Bibbia in mano, la Specialty fa uscire un altro fuoco artificiale della pesca della Georgia, l'anfetaminica. Oh my soul, baby, baby, baby, baby, don't you know my love is true, honey, honey, honey, honey, honey. Love, love, love, love, love. Oh, my soul. Baby, baby. baby, baby, baby. Don't you know my love is true? Honey, honey, honey, honey, honey. Get up off of that money. Kiss, kiss, kiss, kiss, kiss. Woo, my soul. Baby, baby, baby, baby, baby. Don't you know my love for you? Woo. Honey, honey, honey, honey, honey. Get up off of that money. Love, love, love, love, love. Woo, my soul. Che dici a me? Oui, je t'aime. Ma che ne dici se ce ne andiamo a prendere qualcosa e poi andiamo a casa mia, che sta proprio qua dietro? Mais tais-toi! Je suis en train d'enregistrer un message pour Cioccolato Bianco. Comunque, je t'aime. Moi non plus. There's a man in New Orleans, he's a rock and roller. He's a guitar man with a great big soul. He lays down a beat like a ton of cola. He goes by the name of King Creole. You know he's gone, gone, gone, jumping like catfish on a pole. Yeah. You know he's gone, gone, gone, out of hip-shaking King Creole. Il piano del colonnello per lavare l'immagine di Elvis prevedeva l'ingresso nelle forze armate. He starts to growl without any strength. He bends a string and that's all she wrote, you know it's gone, gone, gone. La cartolina era arrivata nel gennaio del 58, ma aveva chiesto una proroga perché stava girando il suo quarto film, King Creole. King Creole. Gli alti gradi militari si fregavano le mani. Marina, esercito e aviazione se lo contendevano a suon di offerte. Chi se lo fosse aggiudicato avrebbe avuto un'impennata nei reclutamenti. Gli offrivano di servire nei servizi speciali con sole 6 settimane di addestramento e poi suonare per le truppe. La Marina aveva addirittura proposto di creare la Elvis Presley Company per ricavare fondi per le forze armate. Il colonnello, che inorridiva solo il pensiero che il suo pupillo potesse lavorare gratis, si oppone e convince Elvis a entrare nell'esercito come soldato semplice. Così avrebbe guadagnato le simpatie dei suoi detrattori, servendo il suo paese come un ragazzo normale. You know it's gone, gone, gone, out of King Creole. Il 24 marzo, Elvis presta giuramento a Fort Chaffee in Arkansas. All'evento c'è un sacco di gente fra fans, giornalisti e fotografi. Immancabile il colonnello con i palloncini che annunciavano il suo nuovo film. Immortalato dai fotografi, il famoso taglio di capelli che aveva inorridito i fans. Tre ragazzine di Knoxon nel Montana avevano spedito una lettera al presidente Eisenhower dove minacciavano il suicidio se avessero tagliato basette e capelli al loro idolo. Viene assegnato alla 3ª divisione corazzata e il 28 inizia a Fort Hood in Texas il suo addestramento. scopre una passione per le armi che conserverà per sempre, diventando tiratore scelto con la pistola. Il 14 agosto riceve un durissimo colpo. Muore l'adorata Gladys. Da qualche mese aveva iniziato a bere pesantemente e far uso di pastiglie dimagranti per riprendersi dalla depressione causata dalle preoccupazioni per il figlio e dal pessimo comportamento del marito che spesso le metteva le mani addosso. Per Elvis lo shock è enorme. Era molto unito alla madre. Il dolore per la sua morte lo porta ad accettare gli stimolanti che i commilitoni gli offrono. In poco tempo, dall'uso occasionale, passa a quello quotidiano sviluppando una dipendenza cronica. In ottobre parte per Bremerhaven, una piccola cittadina poco distante da Amburgo, dove ci rimane fino al 5 marzo 1960, giorno del suo congedo. L'Elvis che torna dopo il servizio militare è irriconoscibile. Sembra Alex DeLarge di Arancia Meccanica dopo il trattamento Ludovico. Non più rocker ribelle, ma crooner alla Sinatra, con due pezzi emblematici della sua nuova carriera. Un rifacimento di O Sole Mio intitolato It's Now or Never e Are You Lonesome Tonight, capaci di provocare sogni bagnati anche alle mamme delle sue fans. L'ultimo grande momento del re, esclusa la stupenda parentesi del comeback del 68, è del periodo immediatamente precedente alla sua partenza. In marzo erano iniziate a New Orleans le riprese di King Creole, l'adattamento cinematografico del libro di Errol Robbins e Stone for Danny Fisher. Indiscutibilmente il suo film migliore. Agli ordini del regista di Casablanca, un bravissimo Elvis con i capelli tinti di nero come uno dei suoi idoli Rodolfo Valentino, interpreta Danny. Non più un giovane che sogna di diventare pugile per salvare la famiglia dalla fame della Grande Depressione, ma un ragazzo con evidenti doti canore, che si spacca la schiena per aiutare il padre vedovo e la sorella in difficoltà economiche. Uno dei momenti clou del film e una delle più grandi prestazioni di Elvis è nel clou The Blue Shades, dove lavora. Il proprietario, il mafiosetto Walter Matthau, lo invita a cantare facendolo presentare come Caruso, fra le risate del pubblico. L'interpretazione non può non concludersi con una meritata standing ovation per la grintosissima Trouble. If you're looking for trouble, you came to the right place. If you're looking for trouble, just look right in my face. I was born standing up and talking back. My daddy was a green-eyed mountain jack, because I'm evil. My middle name is Hillary. Yeah, yeah. Well, I'm evil, so don't you mess around with me. Never looked for trouble, but I never ran. I don't take no orders, no kind of man. I'm only made out of flesh, blood, and bone. But if you're gonna start a rumble, don't you try at all alone, because I'm evil. My middle name is Mary. Well, I'm evil, so don't you mess around with me. Don't mess around with me. I'm evil. I'm evil. Evil. Evil. So don't mess around. Don't mess around with me. I'm evil. I'll tell you I'm evil. So don't mess around with me. Fine della Seconda Guerra Mondiale aveva segnato una netta divisione generazionale. Chi era adolescente allo sgancio delle atomiche sul Giappone continuerà con i valori dei genitori: cercare un posto fisso, metter su famiglia e in vecchiaia godere della pensione. Chi invece era più piccolo doveva fare i conti con un futuro incerto, minacciato da un'imminente esplosione nucleare che avrebbe cancellato la vita dalla faccia della Terra. Questa generazione, con un forte senso di precarietà esistenziale, non accetta più di seguire quelle regole da bravo ragazzo. Si ribella e crea una nuova identità con nuovi modelli, nuovi eroi e un modo di vestire che rompe con il passato. Nascono i Teddy Boys, la prima aggregazione giovanile inglese. Ragazzi accomunati non solo dai gusti e dal look, ma anche dalla stessa forma di pensare e comportarsi. Adorano il James Dean di Gioventù Bruciata e ancor di più il duro Marlon Brando del Selvaggio. Vestono pantaloni strettissimi con i risvolti per far notare i vistosi calzini, camicie dal collo alto, gilet, lunghe giacche di lana dai colori vivaci e scarpe di pelle. Il look è completato da basette e lunghi capelli impomatati in un appariscente ciuffo. Nonostante l'aspetto elegante, i Teddy Boys, spesso con il coltello a serramanico nei taschini, sono associati ad atti di violenza. I giornali avevano iniziato a scrivere di loro nel 1956, alla prima del film Blackboard Jungle, quando al ritmo di Rock Around the Clock avevano distrutto un cinema. Il rituale si era ripetuto in ogni sala dove il film veniva trasmesso. La fama di ragazzacci viene gonfiata dalla stampa che si gongola ad ogni atto vandalico e violento dei Teddies. La loro musica non poteva che essere il rock and roll che veniva dall'America con la sua enorme carica dirompente. Nel 1956 l'Inghilterra aveva aperto le porte all'influenza americana. Sbarcava il rock and roll e Heartbreak Hotel schizzava in cima alle classifiche. Erano poi venuti i concerti di Bill Haley, accolto come un eroe, e degli altri rockers americani. Old time cave dweller lived in a cave. This is what he did when he wanted to rave. Took a stick and he drew on the wall. Man out of hell to have himself a ball. Rock with a caveman. Roll with the caveman. Il primo a capire l'enorme portata della nuova musica è un abile e lesto produttore, Larry Parnes, che decide di importare il modello americano e iniziare a registrare rockers inglesi. Il primo titubante esperimento è dell'ottobre del 1956, con questa Rock with the Caveman di Tommy Steele, ufficialmente il primo pezzo di rock and roll inglese. Roll with the caveman. shake with the caveman. Ci riprovo un mese più tardi con Rebel Rock, ma gli americani fanno altra roba. Larry Parnes non demorde e dopo aver lanciato Tommy Steele inizia a promuovere una serie di artisti a cui dà bizzarri e meravigliosi nomi come Martin Wilde, Duffy Power, Billy Fury o Adam Faith. Well, Lordy, Lordy, Miss Glory, girl, oh, but you sure look good to me. Well, I feed on a side of baby. L'Inghilterra voleva avere il suo Elvis, o perlomeno la risposta inglese al messia di Tupelo. L'incarnazione avviene nella figura di Harry Roger Webb. Era nato in India, ma nel 48, dopo l'indipendenza del paese, la famiglia è costretta a trasferirsi in Inghilterra. L'adattamento non è facile. Il padre non trova lavoro e passa da vivere in una casa con servitù a una stanza da condividere con i genitori e le tre sorelle. I compagni di scuola lo prendono per i fondelli per via di quel forte accento e per la sua pelle scura. Dopo qualche anno la situazione economica migliora, si trasferiscono vicino a Londra e inizia ad appassionarsi alla musica finché sedicenne ascolta la canzone che gli cambierà la vita, Heartbreak Hotel. Harry diventa ossessionato dalla figura di Elvis e cerca di assomigliargli il più possibile. Vuole diventare un rocker come lui. È ambizioso e fortemente determinato. Decide di diventare cantante. Azzera il suo accento trasformandolo in un perfetto inglese, lascia la scuola per il lavoro e forma il suo primo gruppo, i Kingtons. Un giorno sull'autobus per andare al lavoro incontra un vecchio amico di scuola, Terry Smart, che suona la batteria in un gruppo skiffle. Siccome il cantante è appena partito militare, chiede a Harry di unirsi al Dick Stiggs Skiffle Group. Il cantante accetta. Il suo obiettivo non è certo suonare le canzoni di Woody Guthrie o Led Belly, ma rock and roll. Così convince due membri della band a unirsi a lui in un nuovo gruppo. Avrebbero dovuto chiamarsi Planet in onore allo Sputnik appena lanciato, ma guardando sul dizionario leggono di un'accezione che significa errante, viaggiatore. Così decidono di chiamarsi Drifters, ignorando che negli States c'è già un gruppo con quel nome. Una sera, durante uno spettacolo al 21's Coffee Bar di Soho, vengono notati dall'impresario teatrale George Gainew, che rimane più impressionato dall'aspetto che dalla voce del cantante. Al gruppo fa registrare due demo, le cover Lodi, Miss Claudie e Breathless, che presenta il responsabile artistico della EMI, Norrie Paramore. Il discografico riconosce immediatamente quel fascino alla Elvis del ragazzo e gli propone, visto il poco talento del gruppo, di lanciarlo come solista. Harry rifiuta, però arriva a un compromesso. Cambia la denominazione del gruppo. Non sarebbero più stati The Drifters. Da ora in avanti gli avrebbero anteposto il suo nuovo nome d'arte, Cliff Richard. Sul finire di luglio, negli studi di Abbey Road, registrano un brano di Bobby Helms che era stato un successo negli Stati Uniti, Schoolboy Crush, che Paramore pensava avesse potenziale da classifica. Sicuri del successo, aveva dato carta bianca alla band per registrare il lato B. A schoolboy crush. Cliff Richard si decide per un pezzo scritto dal suo chitarrista Ian Samwell, Una risposta un po' arrabbiata a un articolo del Melody Maker dove si leggeva che il rock and roll era morto. Secondo John Lennon è il brano più influente di tutto il rock inglese. Una pietra miliare intitolata Move It. Into your heart and soul. Let me tell you, baby, it's called rock and roll. They say it's gonna die, but honey, be let's face it. Well, he just don't know what's going to replace it. Yeah, valleys and calypsos, I've got nothing on. Real country music that just drives along. Gets into your heart and soul. Hey, let me tell you, baby, it's called rock and roll. They say it's gonna die, but honey, be let's face it. They just don't know what's going to replace it. Alice and Calypso have got nothing on. Real country music that just drives along. Maybe, baby, I'll have you. Maybe, baby, you'll be true. Maybe, baby, I'll have you for me. Il 58 è il grande anno di Buddy Holly. You never listen to my prayer. In classifica ci sono tre brani, Oh Boy, Peggy Sue e Not Fade Away. In febbraio era uscita Listen to Me, seguita in marzo dalla beatlesiana Maybe Baby, ispirata da una frase usata spesso dalla madre del cantante. In estate era stata la volta di Ray Vaughan e Think It Over. Tanti dischi nel mercato erano legati ai problemi dei diritti d'autore che avevano portato Buddy a firmare due contratti con la Decca. I suoi single da solista venivano pubblicati sulla sussidiaria Cora, mentre quelli dei Crickets uscivano su Brunswick. Frenetica era anche l'attività live, con i consueti massacranti tour in ogni parte del paese. Quando toccava suonare al sud, erano accolti con diffidenza dal pubblico afroamericano, ma sempre riuscivano a conquistarsi le loro simpatie, tranne quando non potevano suonare, per via delle assurde ordinanze locali che lo proibivano. Maybe, baby, I'll have you for me. In marzo si esibisce per 25 serate consecutive in Inghilterra, dove lascia un'eredità senza paragoni, influenzando quei giovani britannici che da lì a pochi anni conquisteranno il mondo. All'inizio dell'estate viene fulminato da una delle segretarie della Peer Sauder, la sua casa editrice musicale di New York. Buddy chiede alla giovane portoricana Maria Elena Santiago di uscire dopo il lavoro. Lei accetta e la stessa sera le fa la proposta di matrimonio. Le nozze, contro il volere di Norman Petty, si celebrano in agosto a Lubbock. La luna di miele con l'amico Jerry Ellison e la sua Peggy Sue in Messico, ad Acapulco. In settembre esce un altro single, l'ultimo a nome Crickets. Un altro gioiellino del talentuosissimo Buddy Holly. It's so easy. It's so easy to fall in love. It's so easy to fall in love. People tell me love's for fools. So here I go, breaking all of the rules. It seems so easy. Seems so easy, seems so easy. Oh, so doggone easy. Doggone easy, doggone easy. It seems so easy. Seems so easy, seems so easy, seems so easy. Where you're concerned, my heart has learned. It's so easy to fall in love. It's so easy to fall in love. Set apart for me, it seems so easy. Seems so easy, seems so easy. Oh, so doggone easy. Doggone easy, doggone easy. Mm-hmm. It seems so easy. Seems so easy, seems so easy, seems so easy. Where you're concerned, my heart has turned. It's so easy to fall in love. It's so easy. Doggone easy, doggone easy, doggone easy. It seems so easy. Seems so easy, seems so easy, seems so easy. Well, where you're concerned, my heart has turned. It's so easy to fall in love. It's so easy to fall in love. E per stavolta è tutto, gente. Nel ricordarvi che la vostra felicità è anche la mia, vi do appuntamento al prossimo episodio di Cioccolato Bianco. La storia del rock, quella vera.